Ogni tanto, spigolando nel grande campo delle comunicazioni di massa, capita di imbattersi in autentici fossili ideologici, in veri e propri frammenti del passato conservati chissà come per la gioia degli studiosi. Appartiene a questa preziosa categoria il lamento di un signore di Pinerolo che questa settimana mi è capitato di leggere non senza commozione sulla rubrica delle lettere dei lettori dell'Espresso, che adesso si intitola Forum ed è accessibile grazie all'indirizzo email, ma di rubrica di lettere di lettori sempre si tratta. Il lettore in questione è addolorato per la presenza nella lingua italiana contemporanea di troppi termini inglesi. Una posizione in sé legittima, direte voi, perché tutti sono liberi di addolorarsi per quello che vogliono, ma meno facile da motivare sul piano scientifico di quanto non sembri. Infatti, dopo aver notato che tutti i popoli conquistatori hanno sempre imposto innanzitutto la loro lingua, tanto è vero che le lingue che parliamo oggi nel sud-ovest europeo provengono dall'imposizione del latino, e fin qui tutto bene o quasi, lo sciagurato si lancia in distinzioni davvero un po' dubbie. Il latino, scrive, era una lingua ricca ed evoluta. L'inglese invece risulta un linguaggio residuale, a struttura gergale, mezzo espressivo di un popolo mercantile imperialista, per cui non può che deturpare l'italiano con un'alluvione di strutture idiomatico-gergali e di vocaboli imprecisi e vaghi. Il fenomeno, a suo avviso, è concomitante e parallelo al progredire dell'ignoranza e dell'infantilismo popolari e rappresenta un problema di primaria importanza per chi voglia reagire a tale andazzo. Eccetera. Ecco, il lettore non del tutto di genere di linguistica scuote sconsolato la testa. Pover uomo, pensa, siamo nel 2000 e questo onesto lettore dell'Espresso, un settimanale di grandi tradizioni democratiche, e questo onesto lettore dell'Espresso, pur di sacramentare contro l'ignoranza e l'infantilismo del popolo, che è una cosa che fa sempre piacere, deve ricorrere alla più dubbia attribuzione di valore. Protesta perché l'italiano è contaminato da un'altra lingua, ma non ha il coraggio di richiamarsi espressamente alla grande tradizione del purismo. Probabilmente sa che come scuola di pensiero il purismo oggi non va più che tanto, che di Basilio Puoti non si ricorda assolutamente nessuno e che l'Accademia della Crusca si è vista recentemente tagliare i contributi ministeriali. E allora cerca con zelo di giustificare la sua ostilità in termini storico-strutturali, ma di fronte alla manifesta difficoltà di spiegare di che cosa l'inglese vada considerato un residuo e in che senso la sua struttura possa definirsi gergale, rivela inesorabilmente la corda ideologica. Non ha nulla di meglio da dire che da un popolo a vocazione mercantile e imperialista come quello inglese non ci può aspettare niente di buono, e con il che non soltanto rievoca il diostro maledica gli inglesi di mussoliniana memoria, ma si caccia nella più nera delle contraddizioni, visto che all'inglese appena contrapposto il latino e di gente più portata all'imperialismo e all'esercizio intensivo del commercio dei padri romani non è proprio facile trovarne nella storia. Si fosse limitato a dire, come insegnavano a me le elementari, che l'italiano ha una ben più nobile tradizione culturale o che si tratta di una lingua molto musicale e armoniosa, se la sarebbe cavata con una semplice imputazione di banalità. Invece ha voluto strafare tirando in ballo il latino e la struttura, il residuo e la struttura residuale, e così ci ha rivelato non soltanto di nutrire, come dire, delle tendenze un po' fascisteggianti, il che per un lettore dell'Espresso non sta bene, ma di essere più ignorante della tradizionale capra. In tutto questo, badate, in tutto questo l'inglese e il latino non c'entrano quasi niente. Le lingue non sono delle cose. Non sono delle entità che si possano sovrapporre l'una sull'altra per decidere in base a qualche criterio qual è la più bella e qual è la più grande. E le lingue sono dei complessi sistemi di operazioni che creiamo e utilizziamo noi per rendere pubbliche quelle altre operazioni che compiamo privatamente a livello mentale. E visto che fino a prova contraria la mente è la stessa per tutti, anche le lingue in sostanza sono tutte uguali. Quel poco che le diversifica l'una dall'altra, che fa sì che chi parla abitualmente il cinese abbia qualche problema per comprendere in tutte le sue sfumature il dialetto astigiano, dipende soltanto dalla differenza delle situazioni temporali, locali e sociali in cui le impieghiamo. Infatti, Infatti i problemi di comprensione, nonostante tutto, sono sempre superabili, magari con un po' di sforzo. Nulla osta che un cinese impari l'astigiano e viceversa, e qualsiasi testo può essere tranquillamente tradotto da qualsiasi lingua in qualsiasi altra. Il fatto che l'unica umanità di cui facciamo parte tutti abbia sviluppato, secondo gli ultimi calcoli, un 5-6 mila lingue principali diverse, può causarci qualche problemino pratico, ma nel complesso va considerata una ricchezza comune. Il fatto che queste lingue possano fondersi, mescolarsi, influenzarsi l'una con l'altra, oltre a rappresentare un ulteriore arricchimento, significa soltanto che noi uomini, grazie a Dio, siamo liberi di avere con i nostri simili tutte le relazioni che vogliamo, e ci mancherebbe anche che qualcuno cercasse di vietarcelo. E ahimè, c'è sempre qualcuno che per un motivo o per l'altro cerca di vietarcelo. Visto che spesso di questi tempi si vergogna di dirlo espressamente, o comunque i suoi motivi per non farlo, lo dichiara in via implicita, ricorrendo ad argomentazioni collaterali, magari quelle linguistiche. Datemi retta. Ogni volta che sentite qualcuno lamentarsi della decadenza della nostra bella lingua, stateci attenti. Magari lui non lo sa. Ma il fatto che tutti gli uomini siano uguali e abbiano gli stessi diritti, quel tipo lì non è mai riuscito a crederci veramente.